è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco como una muchachita. Baila col ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo. Eccoci qui, cari ascoltatori, 18:34, 800 24 00 24, la Zanzara. Si interrompe tutto, si interrompe la musica, si interrompe la radio, ma noi siamo qui, caro Parenzo, mi senti? Sarà stato il corvo del Vaticano. Sarà stato un complotto contro la Zanzara, eppure siamo qui mentre non si sente nulla. Adesso, ma non... ecco qua, riprende la musica di sottofondo. In una giornata in cui arrestano dei calciatori, in cui ci sono dei altri calciatori indagati che devono rinunciare alla nazionale, esplode un nuovo scandalo del calcio scommesse. Voglio leggerti la difesa di Formigoni. Il modo in cui Formigoni si difende. Innanzitutto vediamo come risponde ai giornalisti che lo inseguono oggi, eh? Se la prende sempre con i giornalisti il signor Formigoni. Sentiamo. E questa è l'eredità di Don Giussani? Quale? Presidente, farsi offrire cene, viaggi, eccetera. Ma chi mente? Lei o D'Accò? Chi mente? Mentite voi. Ma come? Voi e voi. Mentite voi, sì, perché prendete delle cose che sono false e le vendete ai vostri lettori, ascoltatori, telespettatori, spettatori e quant'altro come se fossero vere. Io ho spiegato con assoluta chiarezza. Dite la verità una volta. Se D'Accò ha ragione, le ricevute dove sono? No, in Sardegna, Presidente. Questo Formigoni davanti ai giornalisti. No, sai chi era questo qui? Sì. L'ho riconosciuto dalla voce, il signor Ricca questo. Ah, l'ultimo. Sono sicuro, l'ultimo, il signor Ricca, Formigoni, risponde. È Ricca, sono sicuro. Dalla voce l'ho riconosciuto. Allora, la più straordinaria difesa di Formigoni è l'altro giorno su Libero. Senti qua, noi viviamo in una perché poi uno si può difendere in mille modi, no? Non sono indagato, la Lombardia non ha, per adesso non ha avuto un euro di danno, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere le difese, i dettagli non mi interessano. Però senti che tipo di difesa ha messo su Formigoni a Libero. Noi viviamo in una sorta di guerra civile, non dichiarata ma vera. In Italia è in corso una lotta senza quartiere per la revisione degli assetti di potere. Sta parlando del suo caso, eh? È in corso in Italia ed è in corso in Europa. Qualcuno vuole un'Italia commissariata, fedele agli ordini delle grandi potenze. Germania da una parte e i grandi gruppi finanziari americani dall'altra. Cosa c'entra con D'Accò? Divento pazzo. Aspetta, in questo quadro è evidente che conviene che ogni focolaio di democrazia e di partecipazione popolare venga spento o depotenziato. Lungo questa strada si è commissariato il governo Berlusconi, che non è mai stato sfiduciato. Oggi si tenta di fare la stessa cosa con un governo regionale che rappresenta una perla all'interno della collana del centrodestra. Questo è un attacco politico, mediatico e finanziario che fa parte di questa strategia internazionale per cui l'Italietta va ridotta a colonia o comunque costretta a obbedire. Cioè, l'Italietta ridotta a colonia e costretta a obbedire con la vicenda D'Accò, le vacanze, la casa comprata in Sardegna. Quindi è meglio che non ci siano esperienze di democrazia come quelle che il centrodestra ha saputo mettere in piedi. Ferrara, Berlusconi, mi piacerebbe vederlo re. Lei come lo vede Berlusconi al Quirinale? Io Berlusconi lo vedo bene re d'Italia, mi piacerebbe moltissimo che fosse diciamo re per diritto divino, ma qui stiamo parlando di politica. Invece Alemanno lo vede come presidente di una fondazione. Berlusconi faccia il presidente di una fondazione, sentite. Secondo me dovrebbe seguire l'esempio di quello che hanno fatto Aznar, di quello che hanno fatto Blair, quello che probabilmente farà Sarkozy, cioè dovrebbe creare una grande fondazione, fare il presidente di questa fondazione e da là dare indicazioni, messaggi, eccetera. La solita leggerezza di Vendola quando si parla di Berlusconi, eh? Vendola, Berlusconi e Bossi, non faccio vilipendio di cadavere. E avete visto come alcuni organi di informazione, non mi fate far polemiche dirette, avete visto come oggi considerano Berlusconi e Bossi? Gli hanno lisciato il pelo per 20 anni, hanno sdoganato le culture aziendal-mercantili e secessioniste di questi protagonisti. A me non piace il vilipendio di cadavere. Mi piace criticare i potenti quando sono sul piedistallo, non quando sono caduti dal piedistallo. E dunque non vuole infierire sui cadaveri, su quelli che considera cadaveri, cioè dire Berlusconi e Bossi. Un'ultima cosa, perché abbiamo già un primo ospite, il mitico Paolo Barnard, giornalista, Monti è un criminale. All'ultima parola. Questo uomo è un bugiardo, oltre a essere un criminale, vabbè, perché adesso, è stato messo al governo da un golp finanziario. L'euro è stato disegnato da un progetto franco-tedesco di 70 anni per arrivare alla distruzione del Sud Europa. Monti sa queste cose, è un bugiardo, non vi spiega, non spiega al pubblico qual è la reale natura dell'euro. Poi evoca addirittura un piano nazista. Ma chi è questo? Un piano nazista. Paolo Barnard, ex collaboratore della Report, ex collaboratore della Gabanelli. Un personaggio grandioso. Paolo Barnard evoca un piano organizzato da enti finanziari tedeschi, sì, e non so che, di origine addirittura nazistoide, per distruggere il Sud Europa. Ma non fanno dei test del palloncino, prova del palloncino prima di andare in una trasmissione? No, non li fanno, non li fanno quasi mai. Purtroppo non li fanno mai. Infine, perché so di fare un piacere alla persona che abbiamo ospite, Fiorello che imita il Papa. Sentite la segna stampa di questa mattina. Lui, chissà, il nostro pontefice ha detto com'è? Spira fento di cose, che cos'era? Fento di invidia nella casa del Signore. Con tutto il rispetto dovuto, ma a me quella non mi sembra la casa del Signore. A voi mi sembra la casa del Signore, con tutti quegli arazzi, con tutti quegli ori. Quella non è la casa del Signore, ma manco la nostra è la casa del Signore, ragazzi. Tutti quegli or. Ma vai Paoletto! E c'è l'incitazione a Paoletto, che sarebbe il corvo numero uno, diciamo, no? 800240024, inizia così la zanzara, e c'è con noi, quanto tempo Parenzo, direttore, come stai? Ehi, ma dove siete spariti? Noi siamo spariti. Dove sei sparito? L'altro giorno ti ho visto in alcune foto con una moretta, insomma, niente male. Io? Però una controfigura. Ma che una controfigura? Eri tu, con una signorina, insomma, no? O no? Con una signorina io? No. Non è possibile. Ma ti hanno fotografato da Vespa? Ma ti hanno come Vespa? Non lo so, ci assomigliamo. Ma che assomigliare? Eri con una brunetta, riccia, carina, o no? Ah, una brunetta, sì. No. Riccia. Vabbè, ma non c'è niente di male. Magari sua nipote, scusa. Per carità di Dio, no. Non è un reato, Come? Non è un reato. No, per grazia di Dio. Fino a prova contraria. Ancora no. Però basta saper aspettare, sarà anche quello un reato. Ti accusano. Ma perché non ti vedono mai con degli uomini, direttore? Cioè, mai una foto con un uomo, ma per strana, per caso. Perché cosa? No, ma che c'entra? Voglio dire, sai, io, a parte il fatto che vivo una vita abbastanza tranquilla, non è che sì, con degli amici che ho, naturalmente, no? Seguo voi la notte nelle repliche, mi diverto da morire, siete bravissimi. Pensa che nelle proposte di possibili lavori, eccetera, eccetera, parlavo con un grande amico, lo dico, l'editore Adam, allora ho detto: senti Alberto, bisognerebbe fare una sorta di zanzara notturna noi, chiamiamola formica, chiamiamola come si fa, e sono troppo bravi questi due, siete dei rompicoglioni come pochi. Senti, scusa direttore, ma hai sentito queste cose su... Vale. Queste cose su... La signora Polanco, la signorina Polanco è travestita da Boccassini. Ci credi tu o no? Ma l'hai vista soprattutto? Perché magari c'eri pure tu quando sei travestita da Boccassini. Boccassini l'ultima volta io l'ho vista, ma anni fa però. Sì. In tribunale l'avrei vista. Non mi sembrava travestita da Boccassini. No, ma lei no, no, è, no la lei. È la Polanco che si è travestita da Boccassini. Così ha detto in tribunale, ma l'avrai letto. Adesso non cadere dalle nuvole. No, non casco dalle nuvole perché alla mia età mi rompo pure una gamba. No, no, no, però voglio dire, ah sì, ho letto lei sì. Aspetta, no, lei la conosco sta ragazza qui. Beh sì, certo che la conosci. No, c'è la Polanco. Ha ragione, perché quando ci fu l'elezione di Miss Pompea, quelle che hanno avuto Miss sì, insomma, io ero presidente in giuria. Però vestita da Boccassini non l'hai mai vista? Non l'avrei eletta Miss. No, ma si sarebbe travestita da Boccassini per far divertire Berlusconi. Dai, in non quelle fare, scene eleganti. Non fare adesso lo gnorri. No, io non faccio mai lo gnorri. L'avrei vista anche tu, no? No, no, io ho visto, ho sentito lei nelle interviste, come l'avete sentite voi, perché sì, ero in aula. Certo. E lei ha detto che si è messa degli occhiali e faceva quella che guardava da sopra gli occhiali. Insomma, diciamo un atteggiamento di chi usando gli occhiali deve leggere qualcosa. Se basta quello per... Ma no, ma l'ha detto lei, sono travestita dalla dottoressa Boccassini. Sì, ma intendendo dire, non è neanche italiana lei, non la Boccassini, parlo della ragazza, non è italiana, quindi era un linguaggio... Cioè, gliel'hanno fatto dire? No, che gliel'hanno fatto dire, non credo, l'ho vista lì. Io Vabbè, insomma, tu hai mai visto una ragazza travestita da Boccassini alle feste di Berlusconi? Boccassini, travestita da Boccassini. No, ho visto la Boccassini vera e non quella finta. Allora, io ho visto, la rivedrò in aula da imputato. La vedevo tanti anni fa durante Tangentopoli quando facevo le telecronache, facevamo in diretta. Eh sì, come no, certo. Ma scusa, però questa Polanco ha detto anche che si è travestita da Obama. Insomma, tu poi un'altra ancora aveva detto che sarà travestita da Ronaldinho, ma c'è da infermiera ancora. La maschera, dice, loro parlavano travestita nel senso da maschera, sì, con la maschera. Obama con la maschera, sì. Ci sono le maschere anche a carnevale, no? Sì. Non so, in Italia ancora ce l'avete le maschere? No, ma infatti non è un reato travestirsi da Obama. Se avevi visto mai nulla del visibile nelle cene eleganti. Come? No, e per capire se durante queste famose cene eleganti avevi mai assistito a qualcuno di questi simpatici travestimenti. Guarda, io durante le cene, la battuta non è eleganti, ma è una realtà. Sì. Va bene, di cene divertenti, curiose, politiche, tutto quanto. Tanto sì. Guarda, io comunque dico. No, ma hai mai visto travestimenti? No, ma solamente per capire se hai visto qualche travestimenti. Una volta forse devo aver visto. Chi? Sarà stata lei con la maschera di come si chiama? Di Obama, sì. La maschera di Obama. Di Obama, con ecco. La maschera della Boccassini, giuro, della Boccassini, mi creda, però mi avrò d'onore, ecco, imputato. Non mi avvalgo della facoltà di non rispondere, rispondo, mai la maschera della Boccassini. La maschera della Boccassini, però confermo, ho visto una volta, forse sarà stata la signorina Polanco, tu non ce lo confermi, ho visto una volta con la maschera di Obama. Tanto Obama, maschera, che, gli, tanto Obama che gli frega ormai. No, ma poi voglio dire, non è un reato neanche quello. Dai. Oggi siete buoni, particolarmente buoni. Ma come buoni? Ma è possibile mai che un desiderio erotico di Berlusconi sia stato la signora Boccassini? Non credo, no? No, io guarda, devo dire, per non è che mi occupo delle parti intime di Berlusconi, ma credo di no, guarda, credo proprio di no. Benissimo, traffico, torniamo subito. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Eccoci qui, 800 24 00 24. Abbiamo saputo in questo weekend, caro Parenzo, che alcuni dei rottamatori, cosiddetti giovani rottamatori del PDL, che vogliono rottamare il PDL tranne il segretario Alfano, sì, sono particolarmente incattiviti nei confronti di due persone, cioè dicono: a noi ci hanno rovinato la Minetti ed Emilio Fede. Addirittura c'è una ragazza, che non so che cosa faccia, che fa attività politica al sud, che dice delle cose tremende di Fede. Ho letto che vuole essere candidato, noi non ci stiamo. Fede, come si risponde a questa signorina? Ma io ho risposto attraverso questo metodo che ormai mi diverte molto, perché io faccio l'alba non in discoteca, ma tweet su tweet, mi diverto, rispondo, intervengo. Sì, su Twitter. Una sì. Ragazza nell'insieme di questi giovani, che sono bravi, sono anche. Però la domanda che mi faccio: ma è possibile che tutti i giovani sono geni e le persone avanti in età vanno in cantina? Beh, insomma, comunque una di queste questi giovani, una ragazza Federica De Benedetto, non sì. Portate in Parlamento Emilio Fede. Ma che comanda lei? Allora gli ho risposto a Twitter, perché francamente saranno rotti da amatori, ma anche a volte dei rotturi di... tori. Ma chi glielo fa fare? Cioè di dire, ma chi ti ha chiesto a te? Ma che mamma di... Poi vuol dire, il problema, attenzione, io ho grande consiglio. Perché se la prendono con te? Spiegami. No, ma così hanno... Che è un bersaglio facile, dici, no? Sì, però è un bersaglio sbagliato, perché amici miei, per quanto vogliamo giocare... Però diciamo la verità. Cose, però Emilio Fede ha una storia. Diglielo a questa ragazza. Questa ragazzina prima vada a scuola, impari le storie dei personaggi, perché io sono un personaggio della storia, del giornalismo, non so te dirlo, e poi io ho delle speranze di andare in Parlamento, lei ne dubito. Chissà, magari aria giovane, aria pulita, gente nuova, facce nuove. Però voi neanche siete ragazzini, però comunque siete giovani rispetto a me. Ma quello dei giovani, non riempiamoci la bocca, perché certamente che ci sono dei giovani che sono dei geni, ma ci sono anche dei giovani che sono dei coglioni. Ma cioè, meglio i giovani, mettiamo i giovani, sì, prendiamo i giovani, li mettiamo lì. Ma che ci fai poi? Poi dipende. Che dipende quello che pensano e quello che dicono, no? È bravo, perché c'è una selezione, poi sai, anche l'idea che i giovani sono bravi, certo quando li vedo all'Happy Hours, ma sai, poi pensare che fanno i sindaci o i deputati, oppure quando poi fra loro purtroppo aumenta quello della droga, eccetera, eccetera. Cerchiamo di educare i giovani a diventare dei giovani maturi, ma mettergli in testa che loro sono il futuro, è un modo di dire. Dai, però scusa, adesso quello che dicono questi... Monti dice i giovani, e l'altro dicono i giovani, e l'altro dice i giovani, che cosa vuole dire? Scusa, Emilio, però diciamo la verità, questi qua dicono, trovano in Emilio Fede un bersaglio facile, perché tu hai detto più volte che vuoi andare in Parlamento, ora ci puoi confermare questa cosa o no? Ma ci mancherebbe altro, io devo dire la verità, mi piacerebbe andare in Parlamento, e perché no? 60 anni di giornalismo, che posso ancora rompere... Ma esiste ancora sto patto con Berlusconi che va in Parlamento, oppure ormai è tutto finito, chissà cosa succede? No. Quando si parla di questo non è che io ho un patto con Berlusconi, ho chiesto a Berlusconi e lui? Se tu ritieni, quando ci saranno le elezioni, di poter... Mi farebbe piacere. Guarda, detto fra di noi, ma siamo tantissimi noi in questo momento, guarda, credo di avere molti meriti, parlo perché ho dedicato la vita a questa professione, ve lo sapete. Dunque il Senato me lo merito, diciamo. Ma il Senato, sai cos'è il problema del Senato? Che c'è tua moglie, devi incontrare tua moglie, no? Già giovane non sono. Il Senato è... Insomma, io preferirei... Ecco, questo l'ho espresso a mio desiderio. Vorrei andare alla Camera, sai perché? Perché? Per fare un po' di casino. La Camera si fa più casino, No, poi casino, sono più giovani. Senso... cioè, vuol dire, c'è un po' più di vivacità. No, ma un po' più di vivacità, non c'è dubbio. Ma è vero che stai scrivendo un libro? Cioè, finita la cosa del libro per Mondadori, che non so perché non sia più andato a buon fine, io e Silvio. No, ma te lo dico. Io ho scritto 9 libri, diciamo, più cazzate che libri. Sì. Va bene, cazzate. Però c'era il 10° libro e avevo il contratto con la Mondadori, perché dovrei essere un autore Mondadori, finora sono stato. E allora avevo il contratto e ho rinunciato anche agli anticipetti, che farebbe anche comodo, no? Però l'ho tenuto fermo 6 mesi e alla fine l'ho strappato, non in senso di disprezzo, ho detto non si può fare, perché il titolo era Io e Silvio. Ma ti pare possibile che uno possa scrivere un libro su... Vabbè, ma adesso che cosa hai in canna, diciamo? Adesso in canna, in senso che cosa ho? Pronto. Nel fucile. Non le faccio le canne, non mai. Mai fatte le canne in vita tua? Mai. Ma non ci credo, dai. Sai che c'è molta retorica di dire sì, io una volta no, mai, assolutamente. Perché guarda, ti ricordi Emilio Fede? Ha cominciato a 14 anni a fare il giornalista. Ma una canna te la sarei fatta? Mai. Ma che canna? Un tiro di qualcos'altro, faccio outing. Ho portato una volta una ragazza in bicicletta in canna, sulla canna della bicicletta. Vabbè, ma dai, ma non ci credo, non ci credo. In tanti anni una canna, una droga qualsiasi. Tutte le sere che Berlusconi mi invitava ad Arcore, per me era, dal punto di vista politico, psicologico e di amicizia, usiamo la parola droga. Nel senso una droga? Ma perché al di là delle battute... Non potevi resistere a questa cosa, Io devo dire la verità, che ero molto felice quando andavo a provarlo, quando parlavo. Era come una droga, ma sei felice di esserti liberato da questa droga o no? Da un certo punto di vista. Quale? La droga delle scene di Arcore. Ma io devo dire la verità, meglio così. Un po' di serie che non mi invita, io comincio a preoccuparmi dal punto di vista umano. Ma come no? E perché non ti invita? No, ma adesso lui c'ha un sacco di cose da fare. No, l'ho visto anche recentemente, è molto impegnato. Tra un Pilates e l'altro, no, tu fai Pilates adesso. Ho fatto Pilates, sì. Una cosa pazzesca. In compagnia di una brunetta, però... Pilates. E il burlesque non l'hai mai visto, il burlesque? Il famoso... burlesque, guarda che il burlesque, sul quale si è molto scherzato, a torto o a ragione, lui indicava... Che cosa? Quel ballo... quei balli comici che non avevano nulla a che vedere con la trasgressione, perché per quanto mi si debba chiedere, poi lo devo tribunare naturalmente, io non ho visto niente di trasgressivo, non ho mai visto niente di trasgressivo. Tanto intanto ti abbiamo riportato su Mediaset qui, perché stai su TGCom 24, te lo dico. Sì, ma per TGCom lo sai, no? Accendi che ti trovi su TGCom 24 con la tua foto che stai parlando, accendi subito. Allora tipo allora in saputa, non così come sono adesso, la foto. La foto, certo, perché come sei adesso? Scusi, allora, mutande, in mutande, come sei adesso? Ma in mutande no, in genere non ci sto. Però ti possono mettere in mutande se continui ad andare in casino, o finisci in mutande, però finisci in mutande. Allora voglio dire, voi siete su TGCom 24. Ma lo senti o no? Lo stai vedendo o no? Sì, certo. Allora ti posso dire che è una invenzione tecnologica straordinaria. Vabbè, adesso non fare il lecchino là. No, posso dire, io avrei... scelto Fede come direttore era poter fare questo, perché io amo la diretta, credo di essere anche abbastanza bravo, cioè andavo meglio io, insomma. No, non ho fatto paragoni, assolutamente no. Dico che quello è un sistema che mi diverte, cioè, io guardo, 27 anni di Rai e 23 anni con Berlusconi, vabbè, è andata così Emilio, è andata così. Troppo tardi e non lo puoi fare più ormai. Perché? Che è successo? Ma no, vabbè, ormai è andata come è andata. No, potrebbe collaborare come al TGCom 24 comunque. Ma scusa, ma ci va tanta gente, ci siete anche voi, perché non ci posso essere? No, per carità. Mi ospiteranno, sono i miei ex, no, sono colleghi, gente con la quale ho lavorato, gente che continua ad amare. Comunque la maschera di Obama c'era, questo è fondamentale. La maschera di Obama c'era. Sì, ma pubblicità, reato. No, che reato, pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara riparte qui su Radio 24, il collegamento da Roma, David Parenzo, e riparte naturalmente con i titoli del TG3. Come da Roma. Dove sei? Ah no, sei a Siena, scusa, al Granducato di Siena. Stai tranquillo, calmo, che non è che do notizie sbagliate. Dai, coordinate profondamente errate. Ho capito, ma non è che ho commesso un reato, come a Roma. Vengono fraintese dai servizi. Intanto, militari. A proposito di qualche personaggio che conosciamo, a Rignano Flaminio hanno assolto tutti, Guarda, quella è una vicenda incredibile, guarda. Incredibile, ma ne parleremo a lungo, sai. Intanto sono stati tutti assolti con formula piena. Non hai letto le carte, ne parleremo molto a lungo di quella vicenda. Ma io ho letto gravissima. Una vicenda di gravità inaudita, guarda. Ma sarà pure grave come vicenda. Intanto hanno assolto tutti a Rignano, tutti hanno assolto tutti. Vabbè. È una cosa abominevole quella che è successa, abominevole. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Calcio scommesse, 150 indagati, 19 arresti, Manetti anche Mauri, centrocampista della Lazio, perquisito Conte, allenatore della Juve, un giro di 2 milioni per Lecce Lazio, blitz della polizia nel ritiro degli azzurri a Coverciano, indagati l'ex genoano Criscito che deve dire addio agli europei, il difensore juventino Bonucci. Spesa pubblica entro giugno, via i tagli di Bondi per risparmiare oltre 4 miliardi, al governo 130.000 segnalazioni di sprechi dai cittadini. Tensione a Brescia tra studenti e polizia nel 38° anniversario della strage di Piazza della Loggia Napolitano, ci fu la copertura di apparati dello Stato. 11 condanne fino a 11 anni e mezzo per le nuove BR in appello a Milano, esclusa la finalità terroristica. Stamane in aula nuove minacce a Pietrichino. Non c'è nessun cardinale coinvolto, il Vaticano smentisce le voci che indicavano un alto prelato dietro la fuga di notizie riservate. Al momento il maggiordomo resta l'unico indagato. Il fatto non sussiste, assolti con formula piena i 5 imputati di presunti abusi sui bambini dell'asilo di Rignano Flaminio, la sentenza duramente contestata dai genitori. Bomba o non bomba, dice Grillo, arriveremo a Roma. E certo, se si va avanti di questo passo, certamente che il Movimento 5 Stelle avrà molti parlamentari, dolce sarà la strada. Le sfoglie il fiore. Direttore? Eccoci, ma ha visto che Alemanno vuole fare di Berlusconi capo di una fondazione. Altri, Ferrara dice io lo vorrei re. Lei come lo vede in questo momento? Io lo vedo come un uomo impegnato seriamente in politica. E che ne dicono? Eh? E perché che ne dicono gli altri? È ancora una persona che ha molto, ma molto da dire. Ma che molto da dire? È tutto finito, direttore, è tutto finito. Non parli con me. Non mi smentire. È tutto finito. E mettiti la cravatta. Ma che cravatta? Ma quale cravatta? Ma scusami un attimo, ma io dico una cosa, ma è tutto finito. Tagliati i capelli. Cioè, che ruolo potrebbe avere? Che ti ha detto che si vuole ricandidare? No, perché lo ha detto lui. Che cosa ti ha detto a te? No, a me non è che debba dire delle cose particolari. È certamente un uomo che no, quando qualcuno dice o pensa, ho detto Bersani, ha detto ma io non ho mai pensato, dice Bersani, che andava al mare. Ma Berlusconi è una persona che ha dedicato 20 anni a questa politica, allora... ha dato tutto quello che ha dato. Dai, insomma, si può decidere politicamente, essere d'accordo o non essere d'accordo, continuerà a fare politica e continuerà a fare politica da protagonista. Ma in che modo? Con che ruolo? Non fare quell'aria strana, perché sennò guarda che. No, ma che aria strana! Hai visto? Alemanno dice che deve fare il capo di una fondazione, ma tu come lo vedi? Cioè, con che ruolo? Io con che ruolo non lo dico per scaramanzia. No, dillo. No, non lo dico. Dillo. Alfano si è sbagliato, l'altro giorno l'ha fatto sorridere. Scusa, posso intervenire su che cosa? Un giudizio abominevole la sentenza che assolve, non è vero. Ma come no? Non si può dire abominevole. No, abominevole la sentenza che assolve. Ma era uno scherzo, era uno scherzo. Ecco, perché la, per fortuna che ogni tanto la giustizia arriva. No, e ma assolutamente. Disgraziati, se sono veramente innocenti, cosa hanno pagato? Cosa hanno pagato per mesi, per anni, considerati come violentatori? Guarda, bisogna era uno scherzo. No, non mi dire che ti sei riconosciuto in questa, in qualche, no, nel senso che ti sei visto, no, colpevole, non mica di queste cose qua di cui erano accusati, per carità. Ma dico, hai accolto questa sentenza anche con una certa sollevazione? No. No, io ho accolto in dubio pro reo. Dico, ragazzi, voglio dire, se la giustizia, se c'è una giustizia, o ci crediamo o non ci crediamo, non è che possiamo crederci soltanto. Senti, però me lo sai che io ho una curiosità, la mia grande curiosità è questa. Guarda, tu sapere quanti anni ho non te lo dico. No, questo lo so, lo so. Ma tu una volta hai baciato in bocca Berlusconi? Senti, tutto si può dire di noi. Ma no, ma un bacio in bocca anche rispetto, perché sennò poi cominciano a dire chissà che io dico dell'altro. No, io ho un grande rispetto di tutti con l'omosessualità. No, ma che c'entra? Ma che c'entra? Il bacio in bocca se lo davano pure i direttori. In Russia si usa moltissimo, ad esempio, baciarsi in bocca tra uomini. Il famoso bacio Gorbaciov con i capi di Stato, oppure anche Putin con Berlusconi. Il bacio in bocca, secondo me, cioè magari ti è venuto spontaneo qualche volta, no? A chi? A me? Di baciare in bocca a Berlusconi. Senza lingua. Io. Senza lingua, eh? Senza lingua, bacio a labbra chiuse. Ma devo rispondere? Siamo su, guarda, siete in una zona di formazione, grazie a Dio, è una grande realtà. No, ma adesso siamo, esatto, Radio 24 è una grande realtà di informazione. Senti una cosa, un attimo, fermo Radio lì, 24 anche, Fermo lì. Chi muove? Federica De Benedetto, buonasera. Guardi, buonasera, ciao a tutti. Eccoci, buonasera, direttore. Sai chi è questa Federica De Benedetto? È quella che dice, che ha chiesto ad Alfano: mi prometti, segretario, che non candidi Emilio Fede? È vero, Federica? Aspetta, Emilio, stai zitto un attimo. Federica? È verissimo. È verissimo. Perché non vuoi il signor Fede in Parlamento? Perché? Il problema non è il signor Fede, ma proprio il modello che lui in questo momento incarna. E che incarna? Che modello incarna? Ah, ve lo dico subito. Io sono rimasta basita quando il direttore Fede, proprio ai vostri microfoni, affermò: una volta che mi sono pensionato dal TG4, chiederò a Berlusconi di candidarmi in Parlamento. E beh, che male c'è? Vedete, proprio il declino del modello berlusconiano e anche del governo Berlusconi, nonché quello che ci ha portato alla crisi, al governo tecnico, è proprio il principio che bisogna chiedere a Berlusconi di candidarsi. Non si chiede a Berlusconi di candidarsi, si chiede ai cittadini. Ma sarebbe uno scandalo, Fede in Parlamento? Dimmi la verità, però non avere paura adesso che c'è Fede qui collegato. Guardi, la paura è un sentimento che non conosco. Io trovo che sia uno scandalo che chiunque venga eletto senza il consenso dei cittadini. Vabbè, ma questo è, l'abbiamo sentito. Cosa. Il mio problema non è che Emilio Fede abbia 81 anni, potrebbe averne anche 25. La qualità non è il merito, non si basa sull'età. Il problema è quest'altro, che affermare di volersi far candidare dall'altro. Ma no, tu non lo dicevi per quello, non lo dicevi per quello. Beh, di certo la pensione non si trascorre in Parlamento. Il Parlamento è il luogo in cui si cambia l'Italia e non in cui si va a fare una passeggiatina per trascorrere la pensione. Ecco, hai capito, Emilio? Non si va in Parlamento per passare gli ultimi tosta giorni. Tosta la ragazza, tosta! Insomma, per andare in pensione, su. Se a questa ragazza vorrei solo, va benissimo, ha ragione lei, è tutta abbiamo ragione a tutto, naturalmente non c'è problema. Oggi poi è Sant'Emilio, quindi mi festeggio da solo, però voglio dire, non mi piace capito, avere ragione, mi contraddico. Bisogna uscire dalla retorica, dalla demagogia. Quando si parla come parla questa gentile fanciulla, io per la verità ho capito poco. Nessuno ha pensato di essere proiettato, di candidare, a chi ti rivolgi per il voto, bambina, ti rivolgi al cittadino, ma ci deve essere un partito o qualcosa che ti candida, quindi però va crescendo, maturando, quando avrai molti anni di più, anche tu avrai 80 anni, mi capirai. Scusi, direttore Fede, se la interrompo, ma è questa legge elettorale. No, ma voglio dire, ma non puoi giudicare tu, non sei nessuno, perché tu puoi dare o non dare il voto. Federica si chiama. Federica, io non ti conosco, ti conoscerò, ma sarò felice, non ti chiederò mai. Ti piacerebbe conoscere Fede, Federica? No, ma che ne frega di conoscere Fede? Che ne so, magari non le piacerebbe, Federica? Facciamo Fede versus Fede? Fede versus Federica. Scusa Federica, ma ti piacerebbe conoscere il direttore o no? Io sarei, siccome le mie idee le posso dire su Facebook, su internet o davanti alle persone direttamente interessate, sarei felice di ripetergliele guardandolo negli occhi. Dunque ti piacerebbe conoscere, magari resti pure, che ne so, affascinata. Posso dirvi una cosa, il problema di questa legge elettorale è che non si... Vabbè, però basta con questa legge elettorale, sì, ho capito, tu facevi un discorso, tu però non ti tirare indietro, facevi un discorso rivolto a Fede. Ho nominato con nome e cognome Emilio Fede. Ti fa schifo. Ti fa schifo l'idea di vedere Fede in Parlamento, questa è la realtà. Mi fa schifo vedere gente che non vuole andare in Parlamento a cambiare l'Italia, ma vuole andare in Parlamento per mettere onorevole prima del proprio nome. L'Italia sta passando momenti seri. Emilio, rispondi. Allora, io vorrei dire a questa ragazza che io sono già onorevole nella mia professione, perché ho 60 anni di giornalismo, ho rischiato la vita in Africa, ho condotto le più lunghe trasmissioni televisive sia in Rai che a Mediaset. Sono un uomo che si è fatto una storia, che in un anno e 8 mesi ha fatto 3 giorni di vacanza, bambina mia, cresci, matura e non parlare per slogan, ti do un consiglio, perché io ho cresciuto e sono cresciuto assieme ai grandi del giornalismo. E quando sono stato assunto in Rai da Enzo Biagi e ai suoi 80 anni sul palcoscenico, sei protagonisti della storia del giornalismo, ha voluto Emilio Fede, ma tu non sai un tubo di niente. Io non sono nessuno, mi guardi negli occhi, concludo, ma cosa vuoi che concluda? Io voglio concludere la mia professione qui a Mediaset, dove sono insieme ai miei amici. Cosa me ne frega? Vado a passeggiare, ragazza. Ecco dove è il problema. Vogliono i giovani, aspetti, ma molti giovani devono crescere, sennò che cazzo. Devi crescere, capito Federica? Cresci. E poi vai a passeggiare tu in Parlamento. Non ci permette di lavorare, non ci permette di cambiare il paese. Non te lo puoi permettere. Federica, calma. Non puoi decidere del tuo voto. Ecco, e non lo dare a me, per carità, non lo dare a me, dallo a Grillo, Grillini, Formichini, quanto vuole ti pare. E poi qual è il problema, direttore? Io sono di destra, e che questa critica venga da destra che vi deve preoccupare, non che questa critica venga dai Grillini. Non pensi che tutte le persone che non sono d'accordo siano comuniste? Federica, scusa un attimo, ma vengono da destra, vengono da Benedetto Federica, come ti chiami, ma tu cosa pensi, che migliaia di persone la pensano come te, mi butto dalla finestra? Magari sì. Va bene, dobbiamo finire, chiudiamo qui, non si capisce niente. Togliete la parola, vigliacchi, farò tutti. Pubblicità, grazie direttore, a presto. Questa è la Zanzara, abbiamo appena iniziato in collegamento dal Granducato di Siena, David Parenzo, qui in studio a Milano, Giuseppe Cruciani. Qualcuno mi scrive, in particolare Claudio Messora, bravo giornalista. Messora, non lo conosci perché non ti occupi di queste cose, non segui le persone su Twitter, eccetera, eccetera. Beh, non penso che sia un reato. Non è un crimine, però te lo dico io. Non fate i paraculi con Federica Di Benedetto, che quella vi compra e vi vende. Ma noi non facciamo i paraculi, noi facciamo quello che si chiama il nostro lavoro. Il nostro lavoro. E poi se devo dirla tutta. A me le persone che se la prendono con Emilio Fede e con Nicole Minetti, non dico che mi fanno schifo perché è esagerato, però è facile, è molto facile, le cause più irritanti, ma non c'è nessuna causa, non difendo nessuna causa, sto dicendo che dire ad Alfano non candidate Emilio Fede è una cosa ridicola, ridicola, punto e basta. Prendersela con la Minetti e con Emilio Fede quando magari per 2-3 anni uno è stato zitto, se non addirittura per 10 anni o per 15 o per 20 anni, è una cosa ridicola. Ma non è vero, la giovane militante se ti piace del PDL. Così. Ma mi piace così, perché la giovane militante del PDL ha posto una questione politica al suo partito dicendo: ah, beh, la questione politica è la candidatura di Fede. Abbiamo davvero bisogno di Emilio Fede. Ma non dire stronzate, dai, su, non dire, ha detto la signora, non dire stronzate. Non dire... E ha incoraggiato il rinnovamento. Avanti, avanti, rinnovamento. Avanti. Ma non ci credi nemmeno tu, sei un buffone. Certo che ci credo, perché non mi interessa. Scusami, io voglio bene a Emilio Fede. Ma perché dobbiamo? Io voglio veramente bene a Emilio. Ma che c'entra adesso porre la questione della candidatura di Fede? Ma che dici? Comunque, se ti piace così, che uno chiama il sovrano. Ma che c'entra il sovrano? Ma perché gli altri che fanno? Come si candidano gli altri? Come si candidano gli altri? Ma ti sembra un metodo normale di selezione? Ma che c'entra? Ma non... Se ti piace, comunque, guarda, è molto semplice. Se veramente ti piace così, cioè che uno chiama il sovrano e gli dice: scusa sovrano, voglio essere eletto in Parlamento. Dice: quanti anni hai, amore mio? Io ho 81, che hai fatto nella vita? Per tanti anni il giornalista è il direttore. Ma chi vai a fare in Parlamento? E beh, ho 81 anni e non cazzo fare a andare in Parlamento. Ti sembra un metodo normale? Ma io poi voglio bene, Emilio, veramente. Matteo da Milano, 800 24 00 24. Matteo, dica. Sì, ciao. Sto ancora ridendo per le cose che ha detto quel signore anziano prima. Sì. Perché sai, effettivamente 82 anni. Che hai contro gli anziani? No, io niente. Che cosa ha lei contro gli anziani? Mi scusi se le ho dato del tu. Contro gli anziani. No, ha qualcosa contro gli anziani per caso? Beh, una cosa veloce, non devono andare in Parlamento. Ma chi l'ha detto che non devono andare in Parlamento gli anziani? Lo decide lei, chi lo dice? Ma quale legge prevede che non si possono candidare gli anziani in Parlamento? Lei è razzista contro gli anziani, si vergogni. Sì, si vergogni, si deve vergognare per quello che sta dicendo. Si deve vergognare invece. Faccio una proposta, va bene, meglio fare in Parlamento pro bono a gratis. Ma che ha gratis, si vergogni per il suo... Lei è razzista, lei è razzista contro gli anziani, si vergogni. Ma no, io sono realista. Lei si deve vergognare, si deve vergognare. Lei si vergogna di altre cose. Io non mi vergogno di niente, lei si deve vergognare per essere razzista con gli anziani, perché vuole togliere gli anziani dal Parlamento, si vergogni. Ma allora rimane vuoto, ha ragione, mi devo vergognare perché dopo rimarrebbe vuoto e sarebbe un casino. Però guardi, io sono 35enne. Sì. I giovani in realtà non sono i ventenni, sono i 35-40 anni, cioè le persone che mente in questo momento lavorano, hanno due palle così. Io uno come Emilio Fede... Ma questo è un altro discorso, lei ha parlato di anziani in generale, lasci perdere. Ma in generale non ci devono stare, ma che ci fanno gli ottantenni? Ma dai, ma non fanno ridere. Lei è razzista, si deve vergognare. Lei è un razzista, si deve vergognare. È come i nazisti che vogliono eliminare, che volevano eliminare alcuni. Non sono una razza di anziani, sono... Lei si deve vergognare quando dice che gli anziani non devono stare in Parlamento, si deve vergognare. Ma non mi vergogno, lei sa benissimo che io dico la cosa giusta. Ma che sta dicendo? Dagli anziani. Cioè, se svuotiamo il Parlamento degli anziani rimane vuoto, è questo che lei Matteo, vuole dire. Fermo un attimo, io in realtà ho pure parlato bene di un bravo giornalista, il quale mi risponde in un certo modo, adesso basta con questa polemica che non so, magari nominando persone che gli ascoltatori non conoscono. No, domani questo Claudio Messora, no? Domani facciamo un sondaggio e vediamo chi o cosa stai difendendo anche tu da anni, io che difendo qualcosa, ma roba da pazzi. No, ma perché si è arrabbiato il collega Messora? Non lo so, perché dice che difendo qualcuno da anni, è impazzito completamente. Va bene, lasciamo perdere, non voglio più parlare di questa cosa. Matteo, allora sì, che c'entrano gli anziani? No, non c'entrano gli anziani. Cosa c'entrano gli anziani? Parli di Fede, non degli anziani in generale. Ma Emilio Fede ha maggior ragione. Guardi, io a Emilio Fede gli chiederei un consiglio se devo andare a per Casinò e per Manze. E vabbè, lei non lo vuole in Parlamento, vuole chiedere un consiglio di Emilio Fede per andare al Casinò oppure a Per Manze. Per essere puliti. Io veramente un consiglio sulle donne a Emilio Fede non glielo chiedo, poi lei faccia come vuole, Matteo. Ma secondo me, poi le dico, non mi riesce neanche a essere antipatico perché è simpatico. Però gli 82 anni. Gli 82 anni non devono stare in Parlamento, ma va no, bene. Però adesso. No, dai, ma secondo me la pensa anche lei. Va bene, grazie. Giulio da Milano, buonasera Giulio. Buonasera, Cruciani. Che c'è? Parenzo, cosa c'è? Cosa c'è? Ma dico adesso oggettivamente, non è una questione dell'età, delle cose. Cioè, ma c'è che bisogno c'è? Poi lui lo fa come provocazione. Ma che bisogno c'è di mandarlo in Parlamento? Oh, ma non è, voglio dire, ma l'argomento non è nemmeno in discussione, è stato evocato da questa ragazza davanti ad Alfano, altrimenti l'argomento non è neppure in discussione, perché secondo me è tramontato definitivamente. A me dà fastidio che qualcuno per crearsi spazio se la prenda con due persone, con la Minetti e con Fede, si faccia spazio con idee proposte, non prendendosela con la Minetti e con Fede, che non è un non argomento. Invece Giulio ha ragione, perché sulla Minetti abbiamo intervistato a un'idea diversa di partito. Onore al merito, ha un'idea diversa di partito. Giulio da Milano, fai silenzio un attimo. Giulio da Milano. Buonasera Cruciani, buonasera. Sì, salve. Dica. Senta, io volevo ricollegarmi a quello che avete detto su Barnard, sul suo intervento. Barnard. Sì. Ma mi dispiace che voi lo dipingiate come una persona che parla a sproposito. Cioè, no, ma scusi un attimo, abbia pazienza, sì. caro Giulio. Io le vorrei fare sentire l'argomento, come dire, utilizzato. L'intervento integrale, anche se sono pochi secondi, per fortuna. Io lo faccio ascoltare così poi ragioniamo meglio. Sarebbe praticamente Monti a capo di una sorta di Spectre. Per affossare il Sud Europa, Spectre bancaria finanziaria per affossare il Sud Europa. Guardi, un progetto che risale ai tempi del nazismo, Giulio. Fermo, ascoltiamo con tranquillità Paolo Barnard, l'ultima parola. Questo uomo vi mente perché è un docente universitario di economia, è un monetarista e sa perfettamente che la catastrofe economica che sta inglobando l'Europa, distruggendo il Sud Europa, è un progetto di 70 anni che nasce con l'economista francese François Perroux, un filo nazista francese che si inventò la moneta unica. Monti studia queste cose, le sa perfettamente. L'euro è stato disegnato per arrivare alla distruzione del Sud Europa. Filo nazista, com'è che si chiama, Parenzo? Ridi un po' no, di questa. Ma ripeto, bravo paragone che riesce a scovare Taretti. Il collega giornalista, come si chiama? Paolo Barnard, come si chiama? Paolo Barnard, non se ne abbia male se chiedo immediatamente agli amici del 118 ambulanza subito. Giulio, allora non ho capito. Volevo dire una cosa, lei Parenzo, mi sembrate, vi ascolto raramente, però mi sembrate due giornalisti che amano la verità, giusto? La verità. Vi piace, no? Vi piace un giornalista che racconta i fatti e i documenti. No, ma giusto? Io non lo so, adesso Paolo io Barnard è un giornalista. Sì, ma non mi interessa il punto non è quello che ha fatto fino adesso. Non è che faccio l'esegeta di quello che ha fatto fino adesso Paolo Barnard. Io ascolto quello che ha detto lì e quella roba che ho ascoltato mi è sembrato un delirio. Perfetto. Non solo mi è sembrato un delirio, dire che Monti è un criminale perché ha un piano per distruggere il Sud Europa. Caro Giulio, ma di che stiamo parlando? Su. Guardi signor Cruciani, dottor Cruciani, legga un lavoro di Paolo Barnard, che è un giornalista che ama documentare. Ma che c'entra il lavoro? Ma quale piano contro il Sud Europa? Ma di che parliamo? Ma lasci perdere i lavori che ha fatto, saranno anche lavori straordinari, inchieste meravigliose, verità scoperte pazzesche. Ma gli alieni, ma sicuro, quello che vogliamo, ma cosa c'entra? Guardi, un piano elaborato da una laurea in economia, giusto nell'università dove quando mi sono laureato, Mario Monti praticamente era rettore dell'università dove mi sono laureato, cioè l'Università Bocconi di Milano. Con quella laurea di economia, io ho studiato economia e mi sono fatto una determinata cultura, giusto? Paolo Banna negli ultimi anni ha fatto un lavoro con degli economisti che non vengono neanche citati in un piano di laurea in Bocconi. Le cito Warren Mosler, le cito Randall Ray, le cito degli economisti che sostengono una teoria che si chiama Modern Monetary Theory, MMT, e ha fatto un lavoro negli ultimi due anni su questa teoria monetaria che va a spiegare l'economia in maniera... Sì, ma va tutto bene, Giulio, va tutto bene, tutte le teorie, va tutto bene. Il punto è, il signor Barnard all'ultima parola ha detto: Monti è un criminale. Non c'è allora, ma non è che c'è allora, forse perché ha le sue ragioni. Ma che vuol dire ha le sue ragioni? Fare le affermazioni pubblicamente e attuare delle scelte, compiere e prendere delle decisioni a livello governativo. Se lo vede agire in un determinato modo, dare delle direttive che poi si trasformano in leggi, che poi si trasformano in regolamenti, in cose che subiamo noi cittadini. Vabbè, anche secondo lei, allora dunque, mi sembra di capire, Monti è a capo di un disegno criminale per affossare il sud Europa. Benissimo, che cosa vuole che le dica, Giulio? Va bene, se la pensa così, avrà le sue ragioni, le sue teorie economiche. No, le posso dire semplicemente che la mia opinione è che le scelte che stanno attuando adesso non vanno a migliorare la nostra condizione, vanno a peggiorarla. Questo è un giudizio. Questo è un giudizio sulla politica economica o su quello che sta facendo Monti, che ci può anche stare, per carità, però non è che bisogna riferirlo. Primo, la parola criminale forse si potrebbe eliminare, però va bene, insomma. Barnard utilizzi quel termine, mi scusi se la interrompo. Se Paolo Barnard utilizza il termine criminale, non credo che lo dica a caso, credo che l'abbia documentato con nomi e cognomi. Va bene, allora, insomma, il suo nuovo guru è Paolo Barnard. Grazie, Giulio. Allora, tanto per rimanere sul punto, sul pezzo, non leggerlo, scrive: difendiamo gli anziani in Parlamento, sarebbe una specie di slogan per tradurre quello che ho detto prima, niente di più sbagliato. Non ho detto questo, solo che dire in assoluto non ci vogliono gli anziani in Parlamento è sbagliato, solo questo. 800 24 00 24 Gianfranco da Padova. Sì, buonasera dottore. Sì. Prima, circa mezz'ora fa, ha avuto un interlocutore che sosteneva che Berlusconi a un certo punto si fosse invaghito della signora Bocassini. No, veramente era una battuta stupida che ho fatto io, caro Gianfranco, non si preoccupi. Invece io ci ho pensato sul serio, ma non in questo senso, nel senso che la Bocassini, passando per il crivello tutte le bellezze frequentate da Berlusconi, a un certo punto credo che si sia domandata come mai che a lei non ha mai fatto un avance, no? E per questo, secondo me, ci ha messo tanto livore nel perseguirlo e nel combatterlo. Ma come l'è venuta questa segnalata? Credo che sia. No, scusi, professore di Padova, scusi, professore. Lei ha aspettato mezz'ora in linea e ha elaborato in mezz'ora questa genialata. No, io ho aspettato mezz'ora, ho chiuso la linea, mi avete richiamato, bene. E glielo dico adesso, che era la stessa cosa che le avrei detto mezz'ora fa. Cioè una stronzata, insomma. Secondo me la guerra Bocassini-Berlusconi è stata una questione sessuale. Sì, ecco. Ecco, interessante questa teoria. Il professore, come si chiama, professore? Gianfranco, il professor Gianfranco da Padova. Caro Gianfranco, stanno per arrivare anche da lei. La cosa che mi manda in atti, Gianfranco, ti dirò ancora lei un attimo, è che loro ascoltano la trasmissione, è meraviglioso questo pubblico enorme della città. Poi prende il telefono Gianfranco, prende il telefono, dice: adesso ho una teoria incredibile, ho fatto una pensata pazzesca. Prende il telefono, fa 8, adesso lo dirò al signor Cruciani, 800 24 00, aspetta mezz'ora per dire questa cosa. Il professore, capito? La genialata del professore. Caro Gianfranco, ma quale sarebbe la questione sessuale tra la Bocassini e Berlusconi? Abbia pazienza, quale sarebbe? Sarebbe che la Bottini sì. è stata, come dire, non presa in considerazione da Sua Maestà. Ah, ho capito. Gianfranco, lei è gravissimo, eh? È una situazione molto grave, è una situazione molto molto grave. Rida pure, però. Rida, però, insomma, sì. qui arrivano in forza, non bastano due qui, non Beh, bastano ho sentito, due. Ho sentito che vi arrivano anche cose più pesanti di queste, più ma non, anche, no, ma la roba grave, sa cos'è? La roba grave che lei ha esordito dicendo "Questo cucciare io ho pensato". No, non usi la parola ho pensato. No. Perché per quello che ha detto ha pensato. Non merita una pensata, una no, credo no, proprio di no, no, merita, no, merita un ricovero immediato, direi immediato, rapido, coatto, camicia di forza e anche coatto, sì. Caro Gianfranco, la saluto e accogliamo tra di noi l'unico Monti nella Lega. C'è un Monti anche nella Lega, uno dei partiti che considera Monti, non dico un criminale, ma quasi. Ebbene, anche la Lega ha un suo Monti ed è un senatore che si chiama Cesarino Monti. Buonasera. Buonasera. Come sta? Grande amico. Beh, vi conoscete voi due, no? Sì. È una brava persona questo Cesarino Monti, veramente, è stato sindaco di Lazzate, mi pare. Sono ancora sindaco. Ma come, dopo vent'anni ancora sindaco? Non prendo soldi, lo faccio gratuito. Una specie di Cesare lei a Lazzate, cioè una specie di papa, no? Sì, una piccola dittatura democratica. Vedi? Esatto, la dittatura di Cesarino Monti, sindaco di Lazzate, che mi hanno ricordato l'altro giorno che lei tempo fa propose una cosa che fu addirittura poi bocciata, non so da chi, dal ministro degli interni, dal prefetto, non so se è stato costretto poi a ritirarla. Cioè lei voleva praticamente assumere a Lazzate solamente residenti? Ci fu una vecchia polemica. No. Ecco. Io ho fatto un regolamento per dare dei punti. Ah, i punti, sì. Residenti, che poi ho vinto, il prefetto Sorge, adesso pace l'anima sua, non vorrei, è stato mandato via da Milano e ho vinto e ho assunto due persone residenti a Lazzate che quei punti hanno superato, hanno fatto dei salti. Cioè, le voleva privilegiare i residenti di Lazzate? No, privilegiati, perché era uno dei cardini della Lega privilegiare i residenti. Anche perché non si può prendere una persona per fare l'impiegato che arriva da Canicattì con tutto i costi per fare per uno stipendio di 1.200 euro. No, beh, questo a Canicattì non penso non ci sia nessuno che vuole andare a Lazzate a fare. No, se non è Canicattì sarà Messina, Catania, Palermo. Perché chi vuole venire a fare? Scusi, ma coloro che non hanno costi da sostenere, perché uno che prende 1.200 euro sì. dovrebbe essere preso nei comuni limitrofi, più che si va con sì. Vabbè. Non continua a fare uno che è da Bergamo che viene alzato a lavorare per 1.200 euro sì. quante ore impiega, cioè adesso bisognerebbe ragionare e non andare solo no certo, ma io non volevo tornare su questa vecchia polemica. No, anch'io, perché non è la polemica, per me è stata una grande vittoria. Senta, senatore Monti, Parenzo, tu lo sai che Cesarino Monti doppio incarico sì, ma no ma sì doppio incarico, penso che sia un comune sotto i 20.000 abitanti, dunque si può tenere. È gratuito poi questo lo sappiamo, però i doppi incarichi sarebbe sempre meglio evitarli. Sempre. Ma questo lo sappiamo, lei ha lo stipendio da senatore, ma che vuol dire? Sempre sindaco è, deve fare il sindaco. Beh, è anche se la mia cittadinanza tre volte mi hanno eletto con 70%. Vabbè, questo che vuol dire? Che vuol dire? Cioè, adesso in democrazia non vale nemmeno più. No, questo. Ma che, quanti abitanti ha Lazzate? Scusi. 7.500. Dunque lei può fare, la legge non le impedisce di fare il sindaco di Lazzate e il senatore, giusto? No, la legge oggi, quella nuova, fino al termine del mandato, poi lo impedisce. Ma poi lo impedisce? Ah, vedi, purtroppo, dice lei, no? No, guarda, io ho 65 anni, basta. Sto combattendo una battaglia mia personale, sì. è di salute, cioè vuol dire sì. non è che... Se ne frega di queste cose qua, certo. Diciamo che sto prendo la vita, io sono innamorato della Lega. Sì. Non è che... E perché vuole sfidare Matteo Salvini in Lombardia? Per portare la democrazia in un movimento. E perché? Che cos'è che Salvini? Un dittatore, Salvini? No, scusi, se è da solo... Diciamo che solidifico il dissenso, diciamo così. Solidifica il dissenso. Solidifica fino, oggi, fino a oggi eravate un partito monolitico, tutto, nessuno alzava il dittino. Prima avevamo un segretario sì. che ancora oggi, sottoscritto, dopo 22 anni di Lega, si emoziona ancora quando lo vede. Lei si emoziona a vedere Bossi? Io, guardi, è stato qui a cena da me mercoledì scorso, il giorno degli avvisi di garanzia, e mi emoziono. Mi emoziona ancora. Ma si è messo a piangere quando è venuto da lei? No, ne ho mai piangere. pianto, io non ho mai visto Bossi piangere. Beh, dicono di sì, dicono che abbia pianto recentemente. È roba da... dicono tante cose, ormai per denigrare... È roba da femminucce piangere, no? No, ho detto per denigrare, poi... Sì, non è roba da Bossi piangere, dice lei. Ma non credo che abbia pianto. Forse... Va bene, torniamo con lei tra un attimo, il senatore Cesarino Monti. Ma lei non, in questo periodo non le fa un po' specie chiamarsi Monti? No? Non le dà un po' fastidio? Ah, senta, dovrebbero... Io sono entrato prima io del Mario Monti. Mi fa specie che voi continuate a criminalizzare per mezz'ora Monti senza specificare che si chiama Mario, eccolo. No, Mario, perché... Ah, ho capito, ho capito. A tra poco, pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, Sergio. Quindi Sconi non l'ha potuto invitare dopo. Questa è una battuta. Sì, non si era capito che era una battuta, comunque. Ah no, e perché? Perché non si è capito che era una battuta. Me la ripeta, così almeno la metabolizzo meglio. Allora, la Boccassini è andata in barca con De Benedetti anni fa. Mentre con Berlusconi non è potuto andare, ecco perché ce l'ha con Berlusconi. Ah, ho capito, ho capito. Questa è una battuta parlando del professore pazzo, sì, che si parlava prima. No, io volevo parlare del PDL, volevo soltanto dire una cosa molto chiara, e infatti sono d'accordo con lei. La ragazza è molto arrogante e quindi mi sembra completamente assurdo che lei possa essere... È molto arrogante, io non ho detto che è molto arrogante. Specifichiamo le cose. La ragazza che è intervenuta prima contro Emilio Fede è una ragazza che ha le sue idee, secondo me magari ha delle idee molto condivisibili, però quando parla, quando se la prende in particolare con Fede o con la Minetti, secondo me è un bersaglio facile, questo ho detto. Ce l'abbia con tutte, diciamo, le persone che possono entrare nel PDL e poi farsi votare. Lei forse non ha capito che prima bisogna entrare in un partito e poi dopo farsi votare. E infatti aveva ragione Fede su questo. Vabbè, questo adesso bisogna entrare in un partito, farsi votare, non è sempre così. Magari uno che... Cioè, fino ad ora sì. Vabbè. D'accordo con lei. Fino ad ora sì. Allora? E niente, poi cosa potevo dire? Parenzo, sei tornato? Sono tornato, ho salutato mia figlia, sto andando via. Cioè, sì, no, ma il problema è che non si prendeva bene il telefono lì, mi raccomando. Adesso si dovrebbe prendere benissimo perché mi sto... Adesso si prende bene, sì. Allora Sergio, cosa voleva aggiungere? Volevo intervenire anche dicendo... Ma che è Sergio Delia? Monti non è per niente un criminale. È un ascoltatore da Padova, sì. Perché Monti non è per niente un criminale. Criminale è stato chi ha equiparato la lira al marco nel 2000. Vabbè, torniamo alle origini dell'euro. Esatto, sì. Sergio, grazie. Grazie. Il senatore Cesarino Monti è con noi, Lega Nord, senatore che sfiderà Salvini per la guida della Lega in Lombardia. Devo dire la verità, senatore Monti, è una battaglia persa in partenza. Tutto finto. Le battaglie si fanno fino in fondo, dipende qual è il risultato. Il risultato l'ho detto prima qual è. E poi così almeno Salvini mi sfiderà. Perché io sfido Salvini e non Salvini sfida me. Ma è la stessa cosa. Cioè, è la stessa cosa. E lui appare più forte, no, il signor Salvini? Appare più forte perché mediaticamente è sicuramente più forte. Perché però è sempre in televisione, no? Anche. Lei... Però io quel tempo lo impiego nelle istituzioni, lo impiego nel mio comune, lo impiego in mezzo alla gente. I miei media sono nel bar, sono stare con la gente. E invece Salvini? Non so, non ci sta con la gente, non ho capito. No, mi sveglio la mattina in televisione, mangio mezzogiorno in televisione, ho letto la sera in televisione, e lì da vedere. Un po' troppo in televisione, dice lei, no? Non lo so. Come non lo sa? Lo sa o non lo sa? Da mio 2 anni e mezzo che non vado più in nessuna televisione. Parenzo forse lo sa anche. Male forse? No, non è male. No, lo so, che non va mai Cesarino Monti in televisione, lo so. Perché è un problema, non è male, perché uno si deve impegnare per il ruolo istituzionale che ha. Poi chi invece ha dei punti di comando nel movimento può andare in televisione, ma non tutti i sindaci, non tutti i parlamentari, perché ognuno dice la sua. Oramai chi si alza la mattina, qualcuno vuole andare a Roma, qualcuno vuole stare a casa, quell'altro, invece che ci sia un movimento con un'idea ben precisa e vanno determinate persone. Scusi, senatore Monti, ma ripeto sul nome Monti, che la cosa mi stuzzica particolarmente. Allora, lei in questo... Bello. No, in questo è rovinato da Monti, da Mario? No, ho rovinato nessuno, perché quello se ne va presto. Se ne va presto. Vabbè, adesso. Questo allora... non è detto, un annetto ancora, 6 mesi. Su. Ma lei quando la chiamano, quando sente, no, questo nome oggi, non le dà un po' fastidio? Non mi chiamano Monti. Monti, mi conoscono tutti come Cesarino Monti. Come Cesarino Monti, eh? Ecco, ce lo dico, mi chiamano Monti. Senta, ma è vero che Bossi potrebbe candidarsi all'ultimo minuto? Una scelta sua, non è che posso intervenire. Vabbè, ho capito, ma ci dica la sua, però, senatore, altrimenti che l'abbiamo chiamata a fare, ci dica la sua, non è che sarà una scelta sua, certo che è una scelta sua. Qualcuno dice, come il senatore Leoni, suo collega, che potrebbe candidarsi all'ultimo secondo. Potrebbe. Lei se lo auspica? Io me lo auspico, io credo che. Se lo augura? Me lo auguro, anche se non c'è altre alternative, se ci sono altre alternative migliori, che si augura, cioè. Perché se uno vuole candidarsi si candida, cioè, vabbè, questa è la palissana. Se uno deve, no, non è palissana. Io non riesco a capire perché si mette già sul piedestalo delle persone così, perché cos'è che hanno fatto più degli altri? Beh, Maroni ha tutte le carte per diventare segretario della Lega, no? Ce le ho anche io tutte le carte, qual è il problema? Beh, oddio, ce ne avrà più Maroni in questo momento per diventare segretario della Lega? O lei si sente all'altezza di Maroni, si sente in grado di guidare la Lega? No, stavo dicendo una è un po' più alto, sì, è un po' più alto di Maroni. Qual è il difetto principale di Maroni, allora? Ma guarda, Maroni è un amico, cioè non sono d'accordo su. Che ha fatto? Che ha fatto che non è d'accordo? Qual è l'errore che ha commesso? La campagna, tipo la campagna dell'Equitalia, che portare. Io sono presidente di un'associazione di sindaci che fanno riferimento alla Lega. Allora? Ok. La questione dell'Equitalia. Beh, anche lui si batte su Equitalia. No, ma io non so, ma per legge dobbiamo uscire, non è che dobbiamo inventare. Ma ho capito, che c'entra Maroni, scusi? Abbiamo fatto, ha portato avanti determinate battaglie quando per legge dobbiamo uscire tutti. No, ho capito, per legge, insomma, Maroni è uno di quelli che sta facendo una battaglia contro Equitalia, no? Sì, ma Equitalia, ma non a livello comunale, Equitalia a livello nazionale sono anch'io il primo, Equitalia a livello nazionale, la legge. Sì. Imponeva tutti i sindaci di uscire entro il 2011. Non mi ha detto quello che cosa ha fatto di strano Maroni, perché non le piace. Perché non mi piace, cioè, non è che non mi piace. Ha coltellato Maroni. Bossi, che ha fatto? Ha tradito Bossi? Guarda, non credo che sia stato Maroni, che ci siamo fatti del male da soli, non credo che sia stato Maroni. Ma non fare il democristiano, Monti. Ma non sei un democristiano, ma parente, ho conosciuto sai che, facevi battaglie parlando con Paolo. Uno è 65 anni. Con i problemi che ho di salute, sto bene, ho vinto forse anche quella battaglia, cioè che no, scendo in campo, mi metto la mia faccia e mi faccio il democristiano. No, questo sapendo, lo so che sei, che hai avuto problemi di salute. Non ancora finito. No, ma lo tenai, ma sto dicendo politicamente, io ti ho conosciuto che leone, che ruggiva, e che come devo sei qui a fa bubù su Maroni, cioè, no, però Ma guarda che io non ho nulla da perdere, io non voglio parlare male di Maroni, non ho nulla da perderci. Ma che Vabbè, non sono d'accordo su certe cose. Senatore Monti, Monti, la domanda è questa: Renzo Bossi va espulso dalla Lega, sì o no? Renzo Bossi è un militante della Lega, se ha fatto qualcosa che non fa, io tante cose non sono d'accordo su tante cose che hanno fatto lì in Lega, però compreso Renzo Bossi, non sono d'accordo, sono contrario. Un domani, quando saranno i motivi per esperlo, va espulso, però con i motivi da. No, se va espulso Renzo Bossi ce ne sono tantissimi da esperlere. Perché non vorrei che tante persone fanno pulizia davanti con le scarpe piene di fango e lasciando sulle impronte di fango dietro. Cioè lei dice se bisogna cacciare Renzo Bossi, allora voglia persone da cacciare. Se lui ha fatto qualcosa che va cacciato, bisogna cacciarlo come tutti. L'ha detto che anche il papà, l'ha detto. Sì. Però non solo lui. Non bisogna Ma Maroni si può dire estraneo a Belsito, a come venivano gestiti i soldi della Lega, secondo lei? Guardi, io in via Belleri sono andato 30 volte in vita mia, il 24 Maroni ci andava tutti i giorni e fa parte del federale, credo che Belsito è riuscito a imbrogliare anche lui allora. Cioè non si può dichiarare estraneo a tutto, dice. No, non so, si può dichiarare, i bilanci passano del Consiglio federale, non è che anch'io sono sindaco, i bilanci passano dal Consiglio comunale, mi danno la delega, la firma del bilancio. Doveva vedere anche lui se c'era qualcosa che non andava, no? Doveva vigilare anche lui o no? Sì, dopo si prendono le cose da leggero tante volte come facciamo tutti e questo. Vabbè, senatore Monti, senta, le chiedo una cosa, Tosi, il sindaco di Verona, le piace? Tosi sono amico, mi piace, dovevano però permettere quello che ha fatto Tosi, cioè di prendere tutti quelli del PDL, mettere in una lista, diventare la sua lista, per permetterlo a Monza in tanti altri comuni. Senta, però ha detto che Bossi, se fosse confermato che ha autorizzato certe spese, non può fare il presidente della Lega, l'ha letto, no? No, io gli ho risposto che faccia il sindaco di Verona, che non è lui che deve dire queste cose. Cioè deve stare zitto? deve fare il sindaco Verone, è quello che le dicevo prima. Qui tutti si alzano la mattina e dicono la loro, tutto per visibilità. La ringrazio, l'abbraccio, a presto, pubblicità. Ciao Parenzo. Alessandro da Palermo, 800 24 00 24. Alessandro. Sì, buonasera. Vada. Oh. Bene, io vi adoro, siete due simpaticissimi esperti di comunicazione che sapete bene provocare anche in giornate apparentemente scarse di risultati, insomma, di informazione interessante come quella di oggi, stuzzichiamo il vecchio. Scarse di risultati, in teoria c'è l'inferno, eh. Lo so, ma non parliamo di calcio perché la trasmissione è intellettualmente elevata. No, veramente non è così, non è assolutamente elevata come dice lei, non parliamo perché, sa, c'è la cronaca che prevale in questo momento nella questione calcio, per cui... Assolutamente, ma mi fa specie che stasera avete, come dire, graziosamente, come spesso fa, scusate, noi a Palermo usiamo graziosamente come termine, sì, vezzeggiativo positivo, sì, rispetto al vostro metodo di comunicazione molto interessante, soprattutto su queste personcine di una certa età che voi amabilmente stuzzicate nell'intento di tirar fuori qualcosa di interessante. La problemi? Notizia, ma... Problemi no. No, assolutamente, problemi no, purtroppo che non c'è la notizia, cioè poco fa parlavamo, parlavamo di fede, parliamo di Lega, ma di che parliamo, Parenzo? Lo dite spesso? No, ma le trovi lei le notizie, se è così bravo Alessandro, le trovi lei le notizie? Se no, è così no, bravo, le trovi fate lei? Bene, fate bene a cercarle, io le trovi lei? Che è così io bravo. Vi ascolto proprio per questo, per essere stimolato dalla vostra professionalità a capire meglio, sì, insomma, quello che si può fare per continuare a portare avanti, insomma, sto carretto, sì, Italia, sì, sì, sì, attraverso questi signori che amabilmente, insomma, corteggiate nell'intento, come ripeto ancora, di portare avanti, insomma, anche una novità, un'idea nuova, ecco. Sì. Io cerco semplicemente di... Ma non c'è nessuna idea nuova che si vuole portare avanti, Alessandro. Come? Non c'è nessuna idea nuova che si vuole portare avanti. Forse non ha capito, cioè qui non è che lavoriamo per portare avanti un'idea nuova. E questo è il punto fondamentale, cioè non è che noi qui stiamo lavorando per creare i presupposti di una nuova classe politica. Posso dire che me ne fotto totalmente di questa cosa qui. Me ne fotto, cioè non è chiaro, cioè non so se sia chiara questa cosa. Esattamente quello che pensa, la verità, e questo mi fa piacere, per questo vi ascolto. Proprio per questo. Bene. Proprio per questo. Grazie. Grazie a lei. Massimo da Novara. Prego. Massimo. Sì, buonasera. Sente? Sì, sì, la sento. Sì, buonasera. Niente, io volevo commentare il discorso di onorevole Emilio Fede, sì, quanto ritengo che sia assolutamente assurdo che una persona di quell'età entri in politica. Perché un conto è arrivarci a una certa età, 50, 60, va benissimo tutto. Sì. Un conto è a fine carriera, la sua, a fine carriera, decidere di farsi candidare. Ma immagino la scenetta, il teatrino, in ginocchio davanti al suo pupillo, al suo re, che chiede per favore candidami, e ho bisogno. Ma guarda che non è, guardi che non è una novità, cioè non è una cosa nuova. L'ha già detto 3-4 volte qui, ma di che parliamo? Qual è la cosa che la sconvolge? Non ho capito. Sì. Ma mi sconvolge il fatto che una persona a 80 anni si mette a volersi, ma per fare cosa? Per prendere un pugno di voti? Da mettere insieme poi al resto del partito? Ma... Per che cosa? Ma io vado a lavorare per uno, sì, scopo, inizio a fare l'impiegato e spero di fare una scalata. Questa gente invece va lì per un altro scopo, non cerca la scalata, al successo, a essere primo, a essere, non lo so, non hanno una meta, hanno solo una poltrona e lì si fanno le radici e ci restano. Bene, grazie. Traffico, grazie Massimo, traffico. Luciano da Prato, altri grandi ospiti stanno avvicinandosi alla Zanzara. Luciano. Buonasera, Luciano, buonasera. Eccoci, dica. Allora, senta, io volevo dare qualche spiegazione in più della persona che ha preceduto a proposito sull'idea della motivazione per cui il signor giornalista Paolo Bernard ha considerato Monti un criminale. Bene, sì, io dico sì. Che ha pienamente ragione. Bene. E le spiego il perché. Perché una persona come lui, che ha ridotto l'Italia in queste condizioni, che chi? Ha Monti. Attaccato le fasce... Ah, è Monti che ha ridotto l'Italia in queste condizioni. No, aspetti. Le conseguenze, i rimedi sono stati peggiori del male che c'erano... Ma questo è un altro discorso. Che abbia sbagliato qualche cosa, nessuno lo mette in dubbio. Beh, cosa c'entra la parola criminale, professor Luciano? Su. Non ha avuto pietà di nessuno, perché si è preso con le fasce più deboli, certamente, e non si è azzardato a torcere neanche un capello per tutta la classe dirigente, tutti quei signori manager politici, i manager pubblici, i parlamentari, che sapeva benissimo dove poter andare a prendere i soldi, con le fasce più deboli. Questo è un crimine nei confronti del popolo italiano. Questo è il mio parere, poi posso anche sbagliare, per carità, è tutto discutibile, però secondo il mio punto di vista, e gran parte degli italiani sono convinto che condividono la stessa idea del giornalista Barnard, ne sono pienamente convinto, si guardi Facebook. Va bene, grazie Luciano, grazie Luciano, 800 24 00 24, è con noi la mitica Via. Vieni con me, muove tu cuerpo, muovi anche tu il corpo, caro David, muovilo. Muove tu cuerpo. Sì, buono oggi con la signorina Maristel Polanco. Buonasera. Ecco. Buonasera, come state? Bene, ho detto a Parenzo di calmarsi un po', Abbiamo arricchito il circo, avanti. Basta, su ogni volta. Maristel, di qualcosa a Parenzo, su ogni volta. Guarda, deve stare calmo, cioè. Deve stare calmo. Una dose di bromuro. Signora Polanco, le dia un bacino al signor Parenzo, così sta calmo. Un bacio. Cattivone. Scusi. Guarda che sarà il tormentone di questa estate. Cosa, cattivone? Sì, è la mia canzone. Cioè, la nuova canzone? Sì. Come sarà? Ce la intoni un po' questa nuova canzone? Le grandi esclusive. Che lui dice cattivona. E io dico andiamo al bunga bunga. No, ma è molto bella la canzone. Adesso sono in studio. Sì? Come fa? Come fa, signora Polanco? Come fa la canzone? Te la devo fare sentire quando ce l'ho pronta. Ma così ci intoni una mezza un... No, vedrete, sentite quanto sarà bella. Che ci sarà dentro? Bunga prossima. Ci sarà dentro bunga bunga, cattivona. Sì, no. Cattivona. Love of my life del bunga bunga, poi. Poi? C'è dove io dico praticamente in italiano, je t'aime bunga bunga, I love bunga bunga, ci piace il bunga bunga, mi gusta il bunga bunga, c'è un... Ma la voce di Berlusconi c'è in questa canzone, no? È chiaro che c'è. Ma c'è quella presa dalle intercettazioni o lui partecipa, ha fatto una canzone con lei? No, quando lui dice cattivona. Qui siamo al top. Vero, ci sarà per la SIAE, attenti a non pure. Ci sarà, scusi? Il registro della SIAE, attenti a non. Il registro della SIAE per forza. Love of my life era un'altra che diceva love of my life. È tutto lo stesso circo, dai, di che parliamo? La signora Minetti. Senta, scusi un attimo, però io ho una curiosità, prima di chiederle com'è inevitabile dalla vicenda della signora Boccassini, però prima di chiederle questo, io ho una curiosità, perché c'è un mio amico che ieri mi ha detto, guarda, perché ci diamo del tu naturalmente, guarda, a me da quando quella signora Polanco si è fatta i capelli così, prima sì, era una bella ragazza, sì, però mi fa impazzire, cioè da quando si è fatta quei capelli corti, quasi rasati, bionda, è una cosa, aspetta, mi ha detto lui, mi piace moltissimo, com'è che ha deciso di farsi questi capelli così? Ma sai che cos'è? Che in Italia, e anche nello spettacolo, il mondo dello spettacolo, le persone delle agenzie così, guardano sempre la ragazza con questi capelli lunghi, è sempre la stessa cosa, sembrano fatte tutte dallo stesso chirurgo, gli stessi capelli, tutti così, allora mi piace essere diversa, capito? Io non sono rifatta, ti dico, io sono naturale, c'è gente che si permette. Non ti sei rifatta niente tu, niente? Allora, e quindi... No, dimmi la verità, non ti sei rifatta niente. No, io sono naturale. Io ho il mio viso, tutto, quindi... Quello che dicevo è che mi piace essere diversa dagli altri, perché tutti quei capelli lunghi, capelli mori, sono tutte della stessa fabbrica, capisci? Io mi piace essere differente, anche se sono già di colore, sono diversa, io sempre mi considero diversa a tutti, no? Non c'è dubbio. Sì, e quindi facendo questo taglio mi sento bene come stessa. Beh, questo è un gran tema. Per avere questo taglio bisogna avere un bellissimo viso. Che su quello non c'è dubbio. Poi ho saputo che lei si sposa, tra l'altro. Sì, mi sposo. Ma chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare, signorina Polanco? Ma sai che cos'è? Che in Italia non mi vogliono dare la cittadinanza. Perché mi sposo, ho trovato un uomo che mi ama e che io lo amo. Almeno divento svizzera, sai? Ma allora che c'entra l'amore? Che c'entra l'amore, scusa? La cittadinanza lo fa, dica la verità. Che c'entra l'amore se vuole diventare svizzera, scusi? Non c'entra nulla. No, perché il mio uomo è svizzero. Ho capito, appunto, lei dice non mi vuole in Italia, non voglio dare la cittadinanza, intanto divento svizzera, però l'amore non c'entra niente. No, l'amore sì, perché ci amiamo, è quello che ti dico. Io sono 15 anni che sono in Italia, ho visto tante persone, tanti uomini così, però non mi sono mai sposata per documenti. Ma dove si sposa? In chiesa? E adesso è comunque arrivato l'ora. Sì. Ma ti sposi in chiesa? Uomo, in chiesa? Ti sposi in chiesa? Sposi in chiesa? Sì, mi sposo in chiesa. In chiesa? Sì. Non è possibile. No, ma vestita... era una battuta questa qua. Vabbè. No, anch'io facevo una battuta. Prima, no, ma non è possibile cittadinanza italiana. Scusi, signora Polanco, però mi dica la verità, questa cosa della Boccasini se l'ha inventata? Ma perché? Io non dico le bugie, cioè, nel senso che se io sono andata lì, sì, dovevo dire quello che volevano sentire loro. Cioè? Io pensavo che c'era la Boccasini, che era lei che come Boccasini, si diceva, c'era lei, non l'altra donna, capisci? Sì, che era lì in tribunale. Sì, comunque dicevo, cavolo, se devo dire la verità lo dirò alla Boccasini, ma ho detto, cavolo, adesso non c'è lei, lo dico com'è andata l'altra donna, ma non pensavo che era una cosa così. Però è tutto vero? Chiaro. Cioè lei è andata una volta ad Arcore a una cena e dopo si è fatto più di due volte si è travestita. Come si fa a travestirsi da Boccasini, mi spieghi? Prendi la parrucca rossa, sì, un paio di occhiali da vista, però senza gradi, sai, normali. Poi la toga dove l'ha presa la toga? Dove si affittano i costumi. E sotto la toga che cosa aveva? Ho detto, avevo mutande, tutte così burlesche, molto elaborato. Cioè, aveva un completo intimo, insomma. Sì, un completo intimo. Molto. No, da burlesque, sai. Da burlesque. Cioè, no, sotto la... Ho fatto il corso burlesque pure. No, certo. E come si fa? Vuol dire, questo travestimento, poi cosa ha fatto? Ha ballato? Ma parliamo le mutande a Reggiseno, scusa. Questo travestimento, cosa ha fatto? Niente, ho messo la mia canzone che muove tuo corpo. Sì. E l'ho ballata. Anche perché così, sai, dopo quel casino che è successo, sì, si parlava la Boccasini, tutti che... le ragazze, quello che è successo così. Allora ho detto, strammatizziamo un po' la cosa. Io prima facevo comunque l'imitazione di Obama, così, no? Con la maschera, allora, no? Con la maschera. Sì, con la maschera, magari con giacca e cravatta, così poi dopo toglievo giacca e cravatta, no? E ho detto, non ho capito una cosa, della Boccasini? Sarebbe una bella cosa per strammatizzare. Infatti quando l'ho fatto tutti ridevano, aula, e non pensavo che succedesse, ridevano in aula. Ebbene, l'aula ridevano come matti, giustamente. Ridevano. Scusi, però la Boccasini, poi le movenze come l'ha fatta lei? Non ha cercato di imitare la Boccasini leggendo magari un testo? Tutto. Cioè, che c'aveva un codice in mano? Sì, dove diceva le ragazze oggettine. Sono? Che diceva? Dell'Espor. Sì, leggendo così, ma scherzando, sai. Scherzando, ma Berlusconi si è accorto subito che era... Ma che ne so, la parrucca rossa, degli occhiali, uno può avercela, no? Può essere... La toga. Quel momento lì, è stata una sorpresa, quando lui è entrato io ero già lì. Era già lì vestita da Boccasini. Seduto, poi sono entrata io. Ma lui si è messo la faccia, si è messo la mano negli occhi, tipo no, ma guarda, cioè. Ma scusi un attimo, ma una volta secondo lei Berlusconi si è eccitato moltissimo con questa cosa della Boccassini? Mi dica la verità. Una cosa ma ha chiesto di ripeterlo comunque. Ah, l'ha chiesto, dunque gli è piaciuto moltissimo. Se, ma se mi dica la verità, questa cosa lo deve avere eccitato moltissimo, no? Avere, no, avere lì una persona travestita da Boccassini, è una cosa pazzesca. No, non credo che è eccitato, ma comunque è stata una sorpresa, perché cioè, neanch'io, sai che mi è uscita proprio così, ho detto ma perché non, già visto che... Cioè l'idea è stata sua? Sempre. L'idea è stata sua? Sì. Cioè, non ho capito come è andata. Lei è arrivata. Checco Zalone, fermi un attimo. Ehi, ciao. Caro Checco. Checco Zalone, di che parlate? Non ho seguito. Guarda, che parliamo? Qui c'è la signorina signorina Polanco, lei conosce Checco Zalone? Io volevo chiedere se facciamo questo film di Bunga Bunga, mi mette me come protagonista, così. Vuole fare un film di Bunga? Vuole fare un film con te, Checco? Polaschi se la prende alla signorina. Mi sembra Ronan per assonanza. Senti, ma hai sentito, caro Checco, questa storia della Boccassini, del travestimento da Boccassini? No. Beh, è una cosa strepitosa. È originale, solo che io sono offeso perché insomma lavoro a Mediaset da diversi anni, non sono mai stato invitato a queste feste, quindi gradirei non parlare. No, certo. È una ferita ancora aperta. È una ferita ancora aperta, certo. Sarebbe stato almeno una volta, dici, tanti anni a Mediaset, da un lavoro, almeno una dove c'era la signorina Polanco. Una volta. La sto vedendo mo su internet. Insomma, no, dice la sua, no? Bella, sì. Oh mio Dio, sta guardando su internet. Cosa guarda su internet? Sta guardando su internet. No, Checco Zalone sta guardando, signora Polanco, la sta guardando su internet perché magari non ricorda bene le sue fattezze. Esatto. Adesso è cambiata, si è fatta i capelli molto corti, biondi. Tanta roba, diciamo la verità. Insomma, su quello non c'è dubbio. Va bene, ritorniamo dopo la pubblicità con Checco Zalone, che ha fatto uscire una canzone. Io non ho capito niente di questa canzone, Checco, devo dirti la verità. Manco io. Vabbè, poi ne parliamo. Vabbè, dopo la pubblicità. Bisogna pagare le tasse. Si tiene la barca, la roba de marca, la macchina del lusso, la dinera dell'incasso, la cuenta in Svizzera, la vacanza esotica. E dice sta canzone, tu l'hai dichiarata? Sì, è una cacata. Allora, Checco, è una canzone montiana questa qua, cioè è una canzone assolutamente governativa, invita, come fa Monti spesso, a pagare le tasse, che per carità è una cosa buona, giusta, nostro dovere, no? Sì, è consolatoria, diciamo, perché se hai fatto l'esegesi del testo, più in là dico, se la tassa l'hai pagata con l'aliquota aumentata, poi ti senti liberata come dopo la cagata. Purtroppo ho dovuto farla al femminile la canzone per una questione di rime, ma è rivolta all'umanità. Diciamo. Senti, ma come ti è venuta in mente questa cosa? La verità è un vostro collega di una radio concorrente che... Non abbiamo concorrenti noi. Complimenti. Li feci la canzone della squadra fortissima, e poi sì. Mi stava chiamando, mi dicevo Ivan Zazzaroni. Sì, come lui. No, certo, certo. È grave lui. E non c'ho niente, Ivan, e fammi una cagata, tac. Ti è venuta in mente la cagata. Senti, Checco, ma Grillo, che ne pensi di Grillo? I comici che vanno in politica, il successo straordinario. Dimmi, non mi dire che ti sta simpatico, sono sicuro che... Senti, l'ho conosciuto, secondo me è uno dei più grandi talenti comici italiani. Ho passato una delle serate, difficile per chi fa questo mestiere, ridere. Quella sera capitavo che cenavamo insieme, risi tantissimo. Quindi dal punto di vista dell'artista comico, ma lo voteresti? Lo voteresti o no? No, forse no. No, ma poi qui a Capurso non sanno che cos'è il 5 Stelle. Sì, pure questo è vero. al sud 5 Stelle Nisba, no. Nisba non è cosa là. Un meteorite sta. Non ci sa. Ma è vero che sei a dieta? Sai che è a dieta, Parenzo? Sì, chi te l'ha detto? Me l'hanno detto. Ah, è vero, la tipa tua, sì, è vero. La tipa mia, la mia collaboratrice, sì. Non lo so, però si vocifera. che devi dimagrire, mica sei... No, c'ho una cacchio di pancia che veramente mi faccio schifo. Prima, ma come di... mai? Forza, sei pugliese, mangiate. Mangio come un porco dalla mattina alla sera, mo sono una settimana che mi sono messo a dieta, ma è terribile, non lo auguro a nessuno. Eh, Signora Polanco, lei quanto pesa? Io? Sì. 58-59 kg. Beh, siamo al top qui, Zalone, siamo al top, Con la plastica. No, con la plastica, lei dice che non si è rifatta nulla. L'ho appena detto che io sono tutta nature. Nature. Allora sei assunta. Ma scusi, signora Polanco, lei uscirebbe col signor Zalone? Ah beh no, che adesso si sposa lei. Ah, ma dipende da cosa vuol dire uscire. Ma uscire, beh, senso, uscire, passare una serata. Tette, uscire, no, perché tette a tette già è, uscire in due. No, ma lei si sta sposando adesso? Vabbè. Sì, mi sposo. Si sposa. Perché si sposa? Perché si sposa? Perché si sposa, signora Polanco? Io non capisco. Perché finalmente ho trovato un uomo che mi rispetta, Sì, ma non è uno deve sposarsi per forza, poi ha visto pure Berlusconi si è sposato due volte, poi alla fine no, è andato tutto come è andata, insomma, è andato... Vero, non erano bravi con Berlusconi. In che senso non erano bravi? Scusi. In che settore? Dovevano comportarsi bene. Beh, là no, mi sa che dica la verità, signora. Lei si sposa per interesse, per avere la cittadinanza svizzera. Dica, lo ammetta almeno a noi. Ma guarda che io sono sincerissima, no, io amo il mio uomo, è l'uomo più bello, più sì. È ricco? È fuori tutto, io lo amo. È ricco? Allora, quindi... È ricco? Ma per me non deve essere ricco, perché se fossi per i soldi, io avrei fossi già stata sposata, cioè non so come... Sì, beh certo, quello, verbo, no? Quello sicuro. Ma... Quello... Senti, io voglio capire una cosa, allora io ho contato tutti i travestimenti che ci sarebbero stati davanti a Berlusconi, no? Allora sì. C'è stato la suora tipo Sister Act, no? Te la ricordi che è così? Cioè, la suora. Sì, sì. Poi Ronaldinho, che io quello non l'ho mai capito, in realtà. Ronaldinho non l'ho mai capito fino in fondo, questa cosa di Ronaldinho. Praticamente il vestito da calcio con i denti a coniglio. Ah. Ho capito, ma uno perché si deve vestire Ronaldinho davanti a Berlusconi? Qual è la perversione? Non la capisco io. Comunque, vabbè. Io sì. È un grande del calcio. Ho capito, però non è che una si veste da Ronaldinho e l'altro si arrapa. Scusa, Checco, tu hai capito qualcosa? Non voglio dirlo perché siamo sempre sulla Rai. Siamo su per arrapparsi. Masochismo. È per far ridere, capisci? Ah, per far ridere, dici tu. Poi c'è la poliziotta, l'infermiera. No, non lo so, non l'ho mai. Poliziotta visto. Non la smentisce. Guardia di finanza? No, la guardia di finanza non credo. L'infermiera. Babbo Natalina, che non so dove è stata presa, Babbo Natalina. Da Papa? Babbo Natalina, sì, la Gheddafina pure? Sai che non mi ricordo perché da fine, no? Non credo. Non credi, aspetta, avvicina la bocca alla cornetta, se no non si capisce. Scusa. Ecco. Poi la Boccassini e Barack Obama, quello l'hai confermato tu, pure Barack Obama con la maschera, vabbè. Sì, Barack Obama. E c'è qualcos'altro che non sappiamo, un altro travestimento, cioè ne abbiamo elencati un po', un'altra cosa che non sappiamo, che non è uscita fuori. Regalaci questo scoop. Ma io dici? Sì, un altro travestimento che non abbiamo ancora saputo. Dei travestimenti così, avevo fatto. Sì, ma non è un travestimento. Cosa? Tipo. Che hai fatto? Come si chiama? Chi? Quella. Dita Bontis, cose così, ma. Chi? Dita Bontis, sai chi è? Chi? Dita Bontis. Ah, Dita Bontis, chi è Dita Bontis? Ah, mamma mia. Lo so, io sono ignorante. Chi è? Checco, aiutami tu, chi è? No, non lo so. Ah, la regina del burlesque, forse. Oh, lei, vedi. La regina del... Poi che hai fatto? Altri personaggi conosciuti? No, Bersani. Basta, quelli già. Bersani, che ne so. Bersani, no? Di Pietro, Bersani, no? No, avevo fatto solo Obama, perché io vado appunto sempre sull'alto, quindi... Ecco, però voglio capire una cosa, Madame Polanco. Sì. Cioè, quando lei aveva questa toga, no? E sotto questa biancheria intima. Sì. Ma vorrei capire questo, cioè lei si muoveva, ballava questa canzone, d'accordo? Sì. D'accordo. Ma poi voglio capire, ma chiedo solo per informazione, ma poi è d'accordo, ballava, cantava, eccetera. Ma si strusciava anche o ballava solo, perché vabbè, insomma, adesso che vuoi sapere pure tu, mamma mia, no, se si strusciava oppure ballava. Non lo so. Ballavo mentre mi toglievo la toga. Ballava mentre si toglieva la toga e rimaneva poi con. E cosa succedeva? Rimaneva con le mutandine e col reggiseno, una cosa normale, tranquilla, eccetera. Beh, Vabbè, beh, è una roba interessante. Ma fa ancora questo tipo, signor di Zalone, ma ha visto il sindaco di Taranto con la pistola a proposito di signor Stefano? Beh, è diventato uno spettacolo, insomma, con questa pistola, no? Poi Vendola l'ha costretto a lasciare ormai la pistola a casa perché girava con la pistola il sindaco di Taranto, uomo di sinistra. La cosa ha fatto molto discutere in Puglia, ma lei non si interessa di cose pugliesi, evidentemente. No, Taranto è abbastanza distante da qui, non ci integriamo tra noi, no, tante culture diverse, è una razza completamente diversa, insomma. Una razza proprio diversa. Beh, girava con la pistola, questo girava con la pistola, è una pistola in mezzo ai pantaloni, al porto d'armi, un missionario, un medico, una persona pacifista di sinistra. A un certo punto Vendola si è arrabbiato, ha scritto sul suo blog una cosa che francamente non l'ho capita abbastanza, ma è una cosa molto lunga, no? Una di quelle sue cose, una di quelle sue prediche lunghissime. Ma tu sei riuscito ormai a, dato che l'hai anche imitato, quando parla adesso è diventato più chiaro oppure è sempre incomprensibile? Ma non è che incomprensibile, io penso che lui abbia una comunicativa incredibile e che arricchisce, diciamo, talvolta con aggettivi ampollosi il discorso, cioè si potrebbe fare un succo molto più sintetico, però io trovo che lui affascini quando parla, è l'unico che quando imito ho bisogno di scriverlo. Vendola, non riesco a improvvisare su Vendola perché lui ha questo uso degli ossimori, delle metafore che è veramente incredibile, bravissimo. Cioè bisogna scrivere tutto per imitarlo? Sì, bisogna scrivere perché sennò non sai che dire, perché lui parla bene, ma è ampolloso, ma parla benissimo. Vabbè, sì, per parlare bene non c'è dubbio, certo bisogna appunto scrivere tutto, gli aggettivi, le frasi, è complicato. Che direbbe Vendola della signora Polanco, ad esempio? Che direbbe Vendola? L'ho detto, lo devo scrivere. Che direbbe della signora Polanco di questo uso del corpo, no? L'uso del corpo, la mercificazione del corpo appartiene a un'umanità ormai estinta nella sua vacua missione che estrinseca solamente quel proverbiale dissenso che nelle terre dell'arsura contadina ha sempre visto battere i suoi perdenti fili nel losco, non so più che cacchio dice. Ti abbraccio, grazie, buona serata, ragazzi. Ciao Checco, a presto. Ciao. Grazie anche a Maristel Polanco, buona serata. Dove va? Ciao, dove va questa sera, signora Polanco? No, stasera sto in studio fino a tardi con la canzone. Con la canzone, com'è che fa questa canzone? Ce l'accenni un po' questa canzone, su, un po', come fa? Cattiva. Ah, così, con la voce di Berlusconi sopra. Straordinario. Traffico, grazie. Buona serata. Siamo qui, Claudio, provincia di Avellino. Buonasera, dica. È un piacere intervenire dopo uno dei più grandi politici dell'Italia occidentale. E chi sarebbe? Zalone. Niente, volevo fare una domanda al Tavares Parenzo, sempre molto attento a Zalone. Tavares, cioè compagno Parenzo. Beh, certo che è un compagno. Parenzo. Compagno, sì. Ancora lei sta a queste definizioni, compagno. No. Parenzo è Tavares, non compagno, Tavares. Tavares Parenzo. No, una domanda a Parenzo. Visto non è un insulto, professore. No, io non sono professore, sono un umile lavoratore. Niente, le volevo fare questa domanda a Parenzo, lei è sempre molto attento. Ha sentito che in Campania noi non possiamo compensare i crediti con il fisco, no? Voi non potete compensare i crediti con il fisco? Ah sì, certo. Sì. E allora? Lei che è molto attento, si è domandato perché. Perché? No, lei che è attento perché? Invece, noi non siamo attenti. Lei invece che è molto attento ci spieghi perché. Perché la regione Campania ha un buco da circa 30 miliardi di euro, sai chi l'ha fatto? Sì, Bassolino lei vuole dire, no? E perché non lo chiamate mai? Alberto, anzi... Diciamo, questa genialata che le è venuta in mente così adesso, perfetta. No, ci vuole dire Claudio che... Io ho sentito bene... Ci vuole dire Claudio che il buco, essendo stato al governo per molti anni, il buco della Regione Campania, il buco di bilancio della Regione Campania è stato creato soprattutto da Bassolino. Sì, ma lo diceva in polemica con me dicendo il compagno Parenzo non invita Bassolino. No, io l'ho sentita. Ma guardi che a Parenzo non gliene frega niente di Bassolino. No, Parenzo è quella classe giornalistica italiana che fa bene il suo mestiere, premesso. Detto questo, io sentivo Parenzo con attenzione quando ritornavo a casa su Emilio Fede. Perfetto. Io sono elettore di centrodestra, io non lo vorrei in Parlamento, che mi rappresenta. Benissimo. Detto questo, non le mando più. Detto questo, vorrei sapere come mai una regione italiana grossa come Israele, come sì, ma non capisco il collegamento tra le due cose, comunque va bene lo stesso. No, perché io c'è una classe dirigenziale, giornalistica, no, attenta ai fatti di Berlusconi, cosa, che invece è indulgente, è indulgente con gli altri. Non è indulgente, è negligente. È negligente, va bene, grazie Claudio. Non è qui la trasmissione, il luogo per parlare della gestione di Bassolino in Campania. Alberto dalla provincia di Belluno, infatti ci trasferiamo a Belluno. Alberto? Sì? Vada. Sì, salve e buonasera a tutti. Io ho una curiosità. Sì. Vorrei, se possibile, avere una risposta dal senatore della Lega Monti. Sì, o che da non un c'è altro più. Leghista. Ah, non c'è più. Beh, un altro leghista ci sarà bene, ascolto. Allora? Si tratta di questo, lo statuto della Lega, articolo 1, dice che loro vogliono la secessione, vogliono distaccarsi dal nostro bel paese, e quando parlano dell'Italia la definiscono sempre con frasi veramente sconce, non voglio ripetere. Mi chiedo, e questa è la domanda, ma perché quando vengono poi eletti, cominciare dal sindaco, dal presidente della provincia, della regione, i senatori, giurano fedeltà alla Repubblica? E non è uno spergiuro questo, ma come si fa ad aver fiducia poi in queste persone? Va bene, vecchia questione, vecchia. Era vecchia questione, ma... Vecchia questione, vecchia, antica, noiosa. Tiziano, provincia di Brescia, la ringrazio Alberto, una cosa noiosa, la secessione però poi giurano sulla... Sì, va bene, d'accordo, certo che è una contraddizione, però è una questione noiosa ormai. Alberto, provincia di Belluno, anzi no, Mario, provincia di Sondrio, Alberto è andato via, Mario. Buonasera dottore, buonasera signor Parenzo. Allora, il problema è, ho sentito prima gli interventi, ho saltato quello della signorina che parlava di fede, ma in riferimento alla nostra gerontocrazia, è possibile mai che qui tutti debbano fare carriera per anzianità nel pubblico? Questo non succede nel privato. Il merito nel pubblico assolutamente Bravo. Non viene considerato. Bravo. Si continua a dire che il legislatore deve comportarsi come il buon padre di famiglia. Io ho 52 anni e penso di essere un discreto padre di famiglia. Vabbè, allora non ho capito. Ci si riunisce quando si prendono le decisioni per il futuro, si interpella il nonno che ha 86 anni, ma la decisione finale non la prende il nonno. Allora tutti questi nonni in politica si limitino a fare i consiglieri, si tirino da parte e che i giovani decidano del loro futuro. Un ragazzo di 30 anni, una coppia di 30 anni che deve fare un mutuo, deve fare dei debiti per il futuro, ma avranno il diritto di decidere loro sul loro futuro o sempre dobbiamo considerare i quarantenni come degli adolescenti ancora? Va bene, tutto grazie. Qui. Grazie Mario. Tiziano dalla provincia di Brescia. Sì, tema importante. Tema vero. Sì, tema demagogico soprattutto. Tiziano, provincia di Brescia. Ma è possibile che stai in un posto dove non si sente nulla, Parenzo? Nulla. Tiziano, provincia di Brescia. Su, Tiziano. Mi senti ora o no? Sì, si sente male, metallico, disturbato, una vergogna. Tiziano, provincia di Brescia. Sì. Vada. Niente, volevo solamente fare un intervento e chiarire due cose. Secondo me è possibile che quando un ascoltatore parla di, o comunque dice di essere di estrema destra o supportare un partito di estrema destra, il signor Parenzo si deve sempre inalberare come se fosse una cosa indicibile o addirittura da bandire in Italia, mentre quando qualcuno parla di un movimento di sinistra o si parla di TAV, vanno sempre considerati, vanno ascoltati, vanno capiti e poi... Sì, ma deve riferirsi a qualcosa di concreto però, Tiziano, ma così generico non si capisce niente. L'ascoltatore appunto supportava il discorso di un movimento di estrema destra, comunque le ragioni dell'estrema destra, e il signor Parenzo subito aberrava la cosa, diceva che era una cosa impossibile, impensabile, dover supportare appunto le idee di destra. E poi la seconda cosa, sempre 2 o 3 giorni fa una parlamentare molto vicino a un discorso ecclesiastico diceva che non era corretto, cioè diceva che era corretto il segreto della confessione. Sì, Paola Binetti ha detto qui alla Zanzara. L'avete appunto smentita sulla cosa. Il signor sempre, no, non abbiamo smentito nulla. Lei ha detto che il confessore, se si trova di fronte ad una persona, si stava parlando dei casi dei preti pedofili, diciamo, no? Che confessa dei reati, esatto, quelli che sono dei reati, non ha il dovere di andare dal magistrato. Io su quello sono d'accordo, infatti la mia critica, ma sono d'accordo con proprio Parenzo, ma non sono d'accordo su che sono d'accordo sul fatto, come dice lei, che non è corretto che un prete mantenga il segreto, ma giustamente deve andare a riferire sempre il signor Parenzo si permette di fare le critiche. Parenzo deve essere proprio l'ultimo a fare una critica, visto che la sua religione stessa sotto certi punti di vista nei testi sacri della sua religione supportano questa cosa. Che supporta? Ma io sono un laico. Non ho capito cosa supporterebbe. Parenzo non è un laico. Non ho capito. A parte che è laicissimo, ma non capisco, non capisco che cos'è che supporterebbe l'ebraismo. Scusi Tiziano, non ho capito questa cosa. Il discorso che comunque... La pedofilia, non ho capito. Sì, esatto, la pedofilia. Beh, ma lei è completamente pazzo, cioè. No, non sono pazzo, che l'ebraismo diciamo che sarebbe cosa? Sarebbe allora, benevolo, sarebbe benevolo nei confronti della pedofilia. Poveretto, poveretto. Nelle sinagoghe a New York questo non lo considera o comunque degli scandali. Ma che c'entra? Che c'entra gli scandali nelle sinagoghe? Sto semplicemente dicendo che all'interno anche della sinagoga, comunque all'interno della religione ebraica, viene concepita questa cosa. Ma lei è un poveretto! Ma di cosa sta parlando? Parenzo, Parenzo, il discorso è che tu tendi sempre... Ma dove ha studiato lei? Poi non guardi nel tuo orticello, è quello il discorso. Ma quale... Ma dove... Ma che... Beh, si possono dire delle baggianate, delle follie totali? No, non sto dicendo una baggianata, non sto dicendo una baggianata. Niente. Perché le... Tiziano, lei sta dicendo delle cose inaudite. Lei delle cose gravi, sta dicendo delle cose gravissime. Ma è grave. No, non sto dicendo delle cose gravissime. Sono sta dicendo delle cose gravissime che riguardano la religione ebraica. Ma è ubriaco. No, non sono ubriaco, sono cose che vengono riportate da anche ma che c'entra che ci possano essere casi di pedofilia anche da anche tutto il mondo. Non venga a fare ammirare la religione cristiana quando in realtà anche la religione che lui professa fa queste cose. Sembra che la... Ma lei veramente... Ma lo sai il numero di casi di pedofilia denunciati all'interno della Chiesa negli ultimi 20 anni, secondo la stessa Chiesa, quanto ammontano? Sto dicendo che i casi... No, no, tanto... Ma cosa c'entra adesso della religione ebraica con questo discorso che riguarda, che è un problema gravissimo che riguarda la Chiesa, che questo Papa ha anche affrontato? Qual è il problema? Il fatto che lui pontifico santifichi, che sembra migliore, quando in realtà anche in casa sua, nel suo orticello... Ma quale casa sua? La casa mia! La casa sua, mi devo dire, a casa di Parenzo. Ci sentiamo domani 18:30. Tiziano, prendo una camomilla. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.